di stimoli, ma questa sera in particolare anche un grazie alla regia, perché la sigla che avete ascoltato è nuova e viene tratta da uno dei miei film preferiti, The Mission, con Robert De Niro, un film un po' datato, che in realtà è pienamente centrato con il tema che andiamo ad affrontare di mese in mese in queste conversazioni, perché dare la vita a Dio, spendersi per una missione, avere uno scopo più alto per la propria esistenza è possibile solo se si crede che questa vita non termini con la morte. E qui ritorna un tema che abbiamo affrontato tante tante volte, cioè il significato della vita viene illuminato dalla prospettiva che la vita stessa ha come viaggio. Se è un viaggio che termina nel nulla, si resta con un pugno di mosche. E allora rimane un'assurdità, un senso di un'insoddisfazione, perché la vita presenta degli aspetti di fronte ai quali non siamo capaci di quel controllo risolutivo che vorremmo avere. Penso alla malattia, alla sofferenza, il male in tutte le sue forme. E allora, per poter alzare gli occhi al cielo, ecco che il cielo è sovente venuto incontro all'uomo stesso. In fondo, la verità stessa del cristianesimo è proprio questa. Non è tanto l'uomo che si immagina Dio, ma è Dio che si china sull'uomo. L'incarnazione, il verbo di Dio che si fa carne per rivelare all'uomo il volto della divina misericordia e anche il volto dell'uomo perfetto, che è Gesù Cristo, ecco che rappresenta proprio questa dinamica. È come se l'Eterno entrasse nel tempo, il finito si trovasse ripieno di infinito, l'umano si trova incontrato per benevolenza totalmente gratuita dal divino. Questa stessa dinamica la possiamo trovare anche nelle apparizioni mariane. In fondo, ogni volta che la Madonna è apparsa tra gli uomini, ha portato messaggi dal cielo, il primo messaggio dei quali è proprio la presenza di Maria. E allora diventa interessante andare a vedere un po' quello che anche le apparizioni mariane regalano nel corso della storia, per accorgersi che sempre risuona lo stesso invito: soltanto sollevando lo sguardo al cielo l'uomo è capace di trovare il senso del proprio cammino terreno. Proprio portando quello sguardo oltre, come dice il titolo di queste trasmissioni, possiamo trovare il significato più profondo del nostro cammino terreno. E sapete bene come, tra le tante apparizioni che abbiamo citato nel corso degli anni, anche nelle nostre conversazioni mensili, qualcuno magari degli ascoltatori più fedeli ricorda che i primi anni, ma dobbiamo risalire addirittura al 2008, per qualche tempo ci siamo intrattenuti con una trasmissione che si intitolava Sulle tracce di Maria e presentavo mese per mese alcuni santuari mariani, tra i più importanti, ma anche i più sconosciuti, le diverse apparizioni mariane nel tempo e nel mondo, dicendo che erano proprio come le tracce di un cammino che Maria aveva percorso tra gli uomini per dare loro segni evidenti della presenza del cielo e di come questo cielo fosse proprio la meta del cammino terreno di ogni persona. Tra le apparizioni che ovviamente sono più ricorrenti nelle mie catechesi, nelle mie testimonianze, ci sono quelle di Medjugorje, perché sono quelle che hanno toccato più da vicino, più direttamente la mia vita. Un po' così, in maniera frammentaria, ogni tanto dico qualcosa della mia esperienza. Questa sera non parlo tanto della mia esperienza, ma mi permetto di dare un buon consiglio per chi avesse, ecco, il piacere, il desiderio di approfondire sul tema di Medjugorje e viene incontro una proposta a livello cinematografico. Mi riferisco al film In fondo alla salita, che verrà presentato in anteprima nazionale il 18 e il 19 dicembre prossimi, presso il Cinema Corso di Rivalta, provincia di Reggio Emilia. E nel corso della proiezione di domenica sarà ospite anche il vescovo, Monsignor Massimo Camisasca. È un progetto che nasce da un'associazione che si chiama Una Mano dal Cielo, che non ha fini di lucro, per cui tutto quello che poi rimane come utile, pagate le spese di produzione, pagati i cinema che ospitano, il film verrà poi diffuso in tutta Italia, ecco che è possibile avere, come si può dire, un residuo che poi viene impiegato con finalità di beneficenza, privilegiando le diverse realtà dei luoghi che hanno appunto accolto e ospitato questo film. E diciamo che è un film che si propone di essere uno strumento per riflettere sul senso della vita, come abbiamo detto in apertura, ma soprattutto su quel grande amore che la Madonna, prova per tutti i propri figli, un amore che aspetta di incontrare anche chi si sente più lontano. E questo avviene parlando di un ragazzo, non spoilerò nulla del film, ma vi do almeno qualche accenno della trama, un ragazzo, diciamo noi, dei giorni nostri, no? Quelli che in apparenza possono essere bravi ragazzi, poi si scopre che hanno problemi di dipendenze, di ferite dell'affettività, e a un certo punto la madre di questo ragazzo si scopre affetta da un tumore che le lascia pochissimo tempo da vivere e tenta il tutto per tutto per salvare questo figlio e gli propone di andare a Medjugorje. E proprio a Medjugorje ci sarà un incontro che sarà decisivo per un cambiamento di vita radicale. Chissà quante storie vi stanno venendo in mente adesso sentendo questa trama, perché tutti sappiamo che il primo vero grande motivo che ci ha spinti ad andare a Medjugorje la prima volta, poco tempo fa o tanti anni fa, è stata, credo, anzitutto una storia di conversione. È possibile trovare su YouTube i trailer, c'è un sito web anche ufficiale in fondo alla salita.com, lì trovate tutte le informazioni del caso. Segnalo questo film perché oggi viviamo in un tempo, in una società che è sempre più veloce. A volte leggere buoni articoli serve, altre volte occorrono anche delle immagini, delle testimonianze, ma soprattutto la bellezza, di rivedere luoghi che ci sono molto cari. E soprattutto in questo periodo, quando a causa della pandemia, da circa un paio d'anni è sempre più difficile andare a Medjugorje, penso che poterci si avvicinare vedendo anche un buon film sul tema può essere una bella opportunità. Un'opportunità, lo ripeto, per tornare a interrogarsi sul senso della vita a partire da quel bisogno di sollevare lo sguardo che è proprio di ogni uomo, soprattutto in questo tempo. Io credo che in questo tempo di pandemia, di restrizioni, di problematiche legate alla salute, ma anche alle crisi sociali, economiche, lavorative, morali che affliggono il mondo e l'uomo, beh, in questo tempo anzitutto c'è bisogno di fare un passo indietro, di recuperare la prospettiva originaria, di ritrovare un giusto ordine di priorità. È il tempo di fermarsi, di fare silenzio, di mettersi in ascolto. Sappiamo bene che tutto il cammino che la scrittura ci propone è quello di un grande incontro d'amore tra Dio e il suo popolo, un incontro che avviene anima per anima, potremmo dire, un incontro che deve portare ad una comunione talmente intima da essere paragonabile a una unione nuziale tra Cristo e l'anima, che diverrà poi sua sposa in paradiso per l'eternità. E in questo incontro è chiaro che si tratta di poter trovare delle porte aperte. Gesù bussa alla porta del nostro cuore, noi siamo invitati ad aprirgli, ma per fare questo dobbiamo essere sicuri che non perderemo nulla aprendo la porta al Signore. Anzi, come ci diceva Giovanni Paolo II all'inizio del suo pontificato, dovremmo avere il coraggio, il desiderio, l'ardore di spalancare queste porte. Perché? Perché aprendo le porte al Signore, entrando il Signore nel nostro cuore, con Lui avremo quella pace, quella gioia e quell'amore che cerchiamo da sempre. Ma questo richiede di cambiare la prospettiva con cui si guarda la vita, di non pensare che la vita sia tutta qui, di non continuare a rammaricarsi perché le cose non vanno come avremmo voluto noi, perché se la meta è il cielo, è normale che questa vita abbia un termine, che ci si ammali, che ci si invecchi, è normale che nella sua fragilità l'esistenza umana dica all'uomo ogni giorno: guarda che non sei fatto per questa terra, c'è di più. E quel c'è di più viene dal cuore che si ribella di fronte alla morte. Quante volte l'abbiamo detto che non c'è niente di naturale nella morte, che ne dicano scienziati e filosofi, perché? Perché noi ci ribelliamo all'idea di dover morire, di dover terminare la nostra esistenza terrena quando ancora vorremmo vivere. Allora, quante domande nascono sulla vita eterna? Adesso diverse questioni le abbiamo già affrontate, siamo in un passo importante del nostro discorso sui novissimi, stiamo parlando del paradiso, ma non potevo concludere la parte relativa al paradiso senza citare anche una questione che potrebbe sembrare secondaria, ma vi assicuro è una delle domande che mi viene più spesso rivolta quando faccio incontri in presenza. Ma gli animali andranno in paradiso? E questa non è una domanda che nasca da un interesse puramente teorico-filosofico. Gli animali in genere nasce da coloro che hanno degli animali domestici a cui sono anche molto affezionati e che, morendo, li privano di una compagnia, di una presenza abituale. E anche in persone dotate di grande equilibrio, di senso di responsabilità, visione razionale della vita, qualcosa va in crisi quando muore uno di quei piccoli o grandi animali che fanno compagnia. E allora viene da chiedersi: ma in paradiso ritroverò il mio cagnolino, il mio gatto? Non vi paiano delle domande prive di fondamento o da prendere alla leggera? Perché se tante persone questa domanda me la fanno, è una domanda che va presa sul serio e ovviamente cercheremo di dare la risposta più onesta e più sincera possibile. E qui entriamo nel campo evidentemente dell'opinione teologica, non c'è un dogma di fede relativo al paradiso degli animali, però questa domanda va presa sul serio perché se tocca così tanti cuori è evidente che dovremo riuscire a farci un'idea di come stanno veramente le cose. Perché sicuramente è una questione che sta a cuore a molti. E però, lo ripeto, dovremmo cercare di rispondere sulla base degli elementi che ci rendono possibile almeno offrire un'ipotesi. È chiaro che il punto di partenza non è semplice. Dovrei richiamare quanto abbiamo già detto nelle passate conversazioni relativamente all'anima. C'è una dottrina sull'anima dell'uomo molto precisa in San Tommaso d'Aquino, il quale a sua volta la riprende da Aristotele. Allora, quando dovete parlare dell'anima in pubblico e non siete sicuri di avere un pubblico cattolico, aperto, credente, se vi sentite in imbarazzo a citare San Tommaso d'Aquino parlando dell'anima, citate Aristotele, non ve lo contesta nessuno. È un filosofo pagano e alla fine è difficile mettersi a discutere una tale autorità. Bene, cosa dice il filosofo greco su questa realtà della persona umana, l'anima? Che in essa si distinguono tre funzioni: quella vegetativa, quella sensitiva e quella razionale. La funzione vegetativa, lo dice la parola, consente di vegetare, vivere e riprodursi, niente di più. Quella sensitiva è legata alle sensazioni, ai cinque sensi, ma anche al movimento. E infine c'è quella razionale, che è legata alla capacità di ragionare, di deliberare, scegliere liberamente. Allora è evidente che quella vegetativa è propria di qualunque essere vivente, le piante, gli animali, gli uomini. Quella sensitiva, che significa poter sentire, potersi spostare a livello locale, è propria degli animali e degli uomini. Quella razionale, che include la capacità di ragionare, discorrere, argomentare, immaginare, decidere, è propria soltanto dell'uomo. Soltanto l'uomo ha cioè una facoltà razionale nella propria anima che gli permette di volere, di scegliere, di liberare. Quindi non è soltanto l'intelletto, ma è anche la volontà e soprattutto la libertà. Questo è un dato importantissimo perché è proprio sulla libertà dell'uomo che si fonda tutto il discorso relativo alla morale. E se una creatura non è libera, come posso parlare di responsabilità morale? Perché se c'è semplicemente un istinto che guida il comportamento, non c'è responsabilità morale. Faccio sovente lo stesso esempio, mi scusate se lo ripeto, ma il leone che insegue la gazzella e la sbrana non sarà mai imputabile di omicidio volontario, magari anche premeditato, con l'aggravante dell'efferatezza. Ha seguito il suo istinto. E quando capita che un animale selvaggio ferisce o uccide un uomo, viene abbattuto, non certo per punirlo, ma per evitare che possa ripetersi un tale incidente. Diverso è il caso dell'uomo. Quando un uomo insegue un suo simile, con l'intento di ucciderlo e magari ci riesce, evidentemente viene incriminato per omicidio premeditato piuttosto che colposo, preterintenzionale, ma c'è una responsabilità. Perché? Perché l'uomo è libero. Se un individuo nel pieno possesso delle sue facoltà l'intelligenza, la volontà, e in età di ragione, dai 6-7 anni, compie una certa azione, si dice che è moralmente responsabile, in quanto era libero di comportarsi in quel modo, ma anche di agire diversamente. Questo essere responsabile dei propri atti vale in primis per i comportamenti morali. Quei comportamenti, cioè dei quali posso dire l'uomo ha agito bene o ha agito male. Compiere il bene o il male significa agire in maniera conforme o difforme dall'ordine morale oggettivo, che rispecchia la legge eterna di Dio. Qui guardate che stiamo usando delle parole la cui difficoltà non sta tanto nella complessità del concetto, perché quando dico ordine morale oggettivo significa che c'è un ordine, c'è una sorta di classificazione, di gerarchia di valori, morale perché riguarda il comportamento, oggettivo che è universale e vale per tutti. Qual è la difficoltà di questa espressione? Non capirne il significato. Anche chi non ha fatto filosofia, se si mette con un po' di calma, con un buon dizionario alla mano, riesce a decifrare il senso dell'espressione ordine morale oggettivo. La difficoltà è che questa espressione nel mondo di oggi non viene accolta, è rifiutata, ma quasi in maniera aprioristica. Perché parlare di ordine morale oggettivo significa che l'uomo non può fare quello che vuole. Significa che c'è un insieme di valori, si potrebbe dire, usando un'esperienza un po' difficile, un ordine assiologico che non dipende dall'uomo. E quindi quando uno dice ma io faccio quello che mi sento, io faccio quello che mi pare, faccio quello che voglio, peggio ancora, e no, si va nel senso esattamente opposto. Ma io ho una coscienza morale, ma certo, tutti abbiamo una coscienza morale, ma la coscienza morale è uno strumento per giudicare se quello che ti proponi di fare o che hai già fatto è conforme o difforme rispetto alla legge morale naturale che trovi già dentro di te. I primi principi morali, quelli che Tommaso chiama la sinderesi nella coscienza dell'uomo, la coscienza deve giudicare, non è fonte della legge morale. Perché se uno si desse da solo principi e valori e poi dicesse anche io sono coerente con i miei principi, è bella forza. E se non sei coerente con i tuoi principi, sei schizofrenico. Per forza che almeno sei coerente con quello che ti proponi tu. Ma la domanda che dovresti porti è: ma quello che mi sono proposto è moralmente buono? E oggi, quando ponete questa obiezione, la gente vi dice normalmente: ma se me lo sono proposto è perché ci credo, secondo me va bene così. Ferma lì. Ma guarda che i valori non sono dipendenti dal soggetto che se li propone. Guarda che la fonte prima dei valori non è la coscienza. È la legge eterna di Dio. E beh, ma e chi Dio non l'ha conosciuto? Chi non ha avuto modo di approcciarsi alla Sacra Scrittura in cui si trova la legge divina rivelata, pensate al Decalogo, i 10 comandamenti? Beh, chi non ha queste letture come fa a conoscere questa legge? È molto semplice, perché l'antropologia teologica ci insegna che nella coscienza dell'uomo c'è come un riverbero della legge eterna di Dio, che è la legge naturale. Naturalmente l'uomo è portato ad alcuni valori morali fondamentali. Faccio un esempio su tutti. Non è bene uccidere un innocente indifeso. Allora, di fronte a queste affermazioni di ordine generalissimo, non vi è chi non veda che tutti concordano su questa impostazione, in ogni luogo, in ogni tempo. E allora dobbiamo capire, ma com'è possibile avere un valore morale così universale? È chiaro che se un ordine morale oggettivo che ci precede, semplicemente lo stiamo riconoscendo. Se pensiamo di essere noi gli arbitri della morale, ci si perde in quel marasma di congetture, paradigmi e visioni della vita che oggi tanto confondono l'uomo. Allora dobbiamo essere anzitutto certi che compiere il bene o il male non è qualcosa di scontato automatico per l'individuo che si propone una certa azione, per chi impegna a paragonare il proprio progetto, la propria intenzione, con un valore morale più alto, oggettivo, universale, che non decido io, ma che fondo nella stessa legge di Dio. Quindi l'uomo attua una scelta con libertà e dunque con responsabilità. E se si è responsabili del proprio comportamento, va da sé che è ragionevole parlare poi di premi e di castighi. In fondo, i due novissimi, di cui si parla così spesso in queste mie trasmissioni, l'inferno e il paradiso, sono esattamente l'idea del castigo e del premio per un comportamento morale, sbagliato oppure giusto. E parlare di premi o castighi non è qualcosa di pedagogicamente scorretto, perché incoraggia la scelta del bene e disincentiva quella che è la pratica del male. Allora, in questo contesto, dovremmo dire, probabilmente è educativo parlare di castighi per bambini, note scolastiche per gli studenti indisciplinati, le multe per i cattivi guidatori, le pene detentive per i fuorilegge. Ma ovviamente vale anche un discorso di segno opposto e positivo, parlare del paradiso. Si va in cielo se si è meritata con la grazia di Dio la salvezza, se si è detto il proprio sì alla chiamata del Signore, si è chiamato, come si può dire, siamo chiamati a camminare secondo la legge di Dio, sui comandamenti. In questo senso, parlare dei castighi non è sbagliato. Mi viene sempre comodo citare la prima parte del Segreto di Fatima per indicare proprio questo concetto, quando la Madonna ha mostrato ai tre pastorelli una grande immagine dell'inferno. E di fronte a questa immagine è chiaro che uno potrebbe dire: ma erano soltanto dei bambini di 7, 9, 10 anni, non potevano impressionarsi. Certo che potevano impressionarsi Giacinta, Francesco e Lucia, ma se la Madonna, che è una mamma, sceglie di mostrare a questi bambini un'immagine così forte è perché sa che l'idea della punizione è pedagogicamente molto valida. E forse non dovremmo sovvertire questi canoni educativi volendo mettere al riparo ad ogni costo i bambini di oggi da queste realtà, presentare loro la vita nelle sue negatività, ma soprattutto nelle sue necessarie assunzioni di responsabilità, perché uno non cresca incapace poi di fare i conti con la realtà della vita. E torniamo però adesso agli animali, eh? Abbiamo precisato, l'anima razionale è propria soltanto dell'uomo. Allora, posso dire di un animale che sia libero come un uomo? O non dovrei piuttosto pensare che quella che appare libertà nell'animale è in realtà un istinto? Ogni animale, infatti, porta in sé un istinto innato, che lo porta ad agire conformemente a determinate spinte per soddisfare quelli che sono i bisogni fondamentali. Ad esempio, potrei pensare, non so, alle tecniche di caccia nei branchi, nei gruppi. Perché gli animali cacciano sempre in un certo modo? Chi insegna loro come si fa? C'è un istinto che non serve imparare da zero a scuola, ma che è come scritto nella natura di quell'animale. E si agisce in conformità a certi schemi comportamentali. Questo non significa che un animale domestico non può legarsi al proprio padrone o che non possa accadere che una madre si sacrifichi per i propri cuccioli, ma si tratta sempre comunque di comportamenti dettati da istinti. Il gatto che viene vicino a farti le fusa perché gli hai appena dato da mangiare. Ma no, ma guarda che viene magari a farti le fusa anche se non gli hai dato da mangiare, però sa che c'è un legame di convenienza nel rapporto con quella persona per la propria sopravvivenza. C'è un esempio, credo, che va sopra tutti gli altri per capire bene la differenza tra libertà e istinto, e che ci permette proprio di distinguere la libertà dell'uomo dall'istinto dell'animale. E questo esempio riguarda l'amore, la forza che muove il mondo, l'energia universale, ma se volete l'essenza di Dio. Ma se volete il tema che più dà oggetti e spunti a canzoni, poesie, romanzi, film. L'amore è un elemento fondamentale della vita umana. Bene, gli animali si accoppiano con i propri simili quando vanno in calore, cioè in certi momenti della stagione, e non badano tanto alle inclinazioni caratteriali o al colore degli occhi del partner, ma cercano semplicemente di espletare un bisogno di riproduzione che che preme dentro di loro. Per gli uomini le cose stanno ben diversamente, non ci sono stagioni o momenti in cui ci si accoppia. Sì, si usa dire si sente la primavera, ma in realtà l'uomo è sempre predisposto ad amare, che è un termine che io so, almeno intuitivamente, chiunque di voi comprende è molto più pregnante di significato che non semplicemente di raccoppiarsi. Quindi l'uomo ama liberamente perché sceglie chi e quando amare, mentre l'animale ama, se vogliamo dire così, seguendo l'istinto. Si potrebbero fare ancora altri esempi sull'istinto animale, no? Se un cane fa la pipì sul tappeto del salotto, posso dire che è un cane cattivo, ma non perché mi vuol fare un dispetto. È cattivo perché non l'ho addestrato bene. Ma se un conoscente mi viene a trovare e si mette a fare la pipì sul tappeto della sala, non penso che uno possa dire basterebbe addestrarlo meglio. C'è una libertà usata male. Allora, premi e castighi sono riservati in senso pieno autentico solo a chi ha la responsabilità delle proprie azioni, cioè è capace di rispondere in merito ad esse. Ma per avere una responsabilità morale, e quindi essere meritevoli di premi o castighi, bisogna essere dotati di libertà, cosa che gli animali, lo ripeto, non hanno, sono dotati di istinto. Non abbiamo mai visto un cane che fa digiuno il venerdì santo, anche se gli mettete la bistecca davanti agli occhi, perché è un cane cattolico che osserva il digiuno. Come non vediamo cani che si raccontano barzellette, che fanno scommesse. Tutto ciò che riguarda la razionalità deliberativa esula completamente dal mondo degli animali. Ora, se un leone sbrana la gazzella e non viene arrestato per assassinio, mentre questa cosa capita per un uomo, è proprio perché, riprendendo la scia dell'esempio fatto in precedenza, all'uomo si riconosce una responsabilità morale. Cioè, mentre posso giustificare l'uccisione da parte del leone, della gazzella, perché deve sfamarsi, è chiaro che non posso lasciare andare a piede libero un cannibale che scopre aver mangiato il vicino di casa per fame. Alla luce di quanto sopra, dovremmo dire gli animali non vanno in paradiso. E qui ovviamente intuisco un po' la delusione, il malcontento da parte degli ascoltatori, perché tanti di voi hanno sicuramente o hanno avuto degli animali domestici a cui si sono molto affezionati. Ma come? Perché non vanno in paradiso? Perché l'abbiamo detto, perché il paradiso è un premio per chi ha vissuto una vita moralmente buona, amando il Signore, seguendo la sua legge naturale, amando la verità, ma questo premio richiede la libertà come condizione fondamentale, e gli animali questa libertà non ce l'hanno. Se un animale non agisce in maniera libera, non è moralmente responsabile, non lo andrò ad accusare delle conseguenze negative dei suoi comportamenti, ma neanche posso pensare di dargli poi dei premi. Ora, proviamo ad approfondire il tema in maniera tale che cerchiamo di togliere un po' di scontento da chi, affezionato al proprio animaletto domestico, mi sta già, insomma, giudicando male, dicendo: ma allora l'ho perso per sempre. Dire che non si ha la certezza che gli animali vadano in paradiso non vuol dire affermare che senz'altro non ci andranno. Guardando anzi al giudizio universale, quando i morti risorgeranno, il Catechismo della Chiesa Cattolica ci offre un testo molto interessante. Al numero 1042, quando leggiamo: alla fine dei tempi il regno di Dio giungerà alla sua pienezza, e dopo il giudizio universale i giusti regneranno per sempre con Cristo, glorificati in corpo e anima, e lo stesso universo sarà rinnovato. Interessante, risorgono i corpi, questo sappiamo che accadrà alla fine dei tempi, e l'universo sarà rinnovato. Cosa vuol dire? Dice ancora il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1044, questo misterioso rinnovamento che trasformerà l'umanità e il mondo dalla Sacra Scrittura è definito con l'espressione nuovi cieli e terra nuova. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 13. È proprio questa espressione che mi interessa, parlare di nuovi cieli e terra nuova, che si accosta a un altro brano biblico molto famoso, questa volta di San Paolo, in cui si parla del destino della creazione. Quindi già il catechismo, citando la seconda lettera di Pietro, allude a nuovi cieli e terra nuova, a una sorta di nuova creazione che seguirà nella prospettiva di un'eternità il destino del mondo, destinato invece a consumarsi alla fine dei tempi, quando nella parusia il Signore tornerà nella gloria. Leggiamo al capitolo 8 della lettera ai Romani, versetti 19 e 22. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa infatti è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. Beh, è Dio che ha creato la natura in condizione di caducità. La creazione è creata come qualcosa che a poco si disgrega, che sfarina. E nutre la creazione la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Ecco, questi tre versetti, dal 19 al 22 del capitolo 8 della lettera ai Romani, ci deve far pensare. Anzitutto, uno può chiedersi, chissà se questo riferimento al rinnovamento della creazione, alla sua entrata nella libertà della gloria dei figli di Dio, non può indicare che alla fine dei tempi anche questo nostro mondo, con le montagne, i mari, i deserti, le foreste, i pesci, gli uccelli e così via, verrà trasfigurato, rinnovato e immesso in una sorta di dimensione di perfezione che durerà per l'eternità. Se così non fosse, cioè se non ci fosse questa possibilità, che alla luce dell'attuale magistero cattolico non pare trovare un particolare sostegno, ecco che allora noi dovremmo dire: ma gli animali sono persi per sempre? Cioè, no, se c'è la possibilità di un rinnovamento della creazione, vuol dire che almeno nella mente di Dio si ritroveranno tutti gli esseri che sono stati creati. Se il rinnovamento della creazione è radicale, ci saranno davvero nuovi cieli e terra nuova, e cosa impedisce che ci siano anche degli animali? Ma se non ci fosse questo rinnovamento nel senso materiale, ma semplicemente si vedesse rinnovata tutta la vita dell'uomo nella luce della gloria di Dio, uno potrebbe dire: ma io nella mente di Dio vedrò tutto direttamente, e nella mente di Dio si trovano anche tutti gli esseri che lui ha creato secondo i suoi progetti, e quindi vedremo in Dio anche tutti gli animali che sono esistiti sulla terra, i nostri animali domestici in particolare, ne apprezzeremo ancor più l'esistenza alla luce del complessivo disegno salvifico del Creatore. Non ritrovo, magari a livello di opinione teologica, possiamo dire questo, non ritrovo il mio cagnolino se vado in paradiso, ma è possibile che io trovi una possibilità di recupero della memoria. Nel cuore di Dio andrò a leggere le vicende di quel cagnolino, ad esempio, che mi è stato così chiaro, e molti significati che prima mi sfuggivano verranno a galla, emergeranno. Per cui capirò, ad esempio, perché proprio io ho avuto la fortuna di incontrare quel tipo di animale. Mi accorgerò se mi sono preso bene cura di lui oppure no. O anche se magari ho avuto un po' un eccessivo scrupolo nell'occuparmi di quello che è semplicemente un animale. Ma soprattutto ci sarà una sorta di storia dinamica che nel cuore di Dio mi svelerà il senso di quei piccoli grandi amici che mi hanno fatto compagnia per così tanto tempo. Allora, riassumendo la questione per cercare di farla il più semplice possibile, che cosa posso dire? Che di fronte alla domanda sul paradiso eventuale degli animali, bisogna rispondere andando a fare riferimento all'impostazione filosofica aristotelico-tomista, così si dice. E questa impostazione che cosa afferma? Che delle tre funzioni dell'anima, vegetativa, sensitiva e, diciamo così, razionale o spirituale, l'uomo è l'unico che possiede tutte e tre queste funzioni, perché anzi quella razionale gli è proprio specifica. Ed è la funzione che gli consente di volere, di deliberare, di essere libero, quindi di essere responsabile. Se puoi, devi, affermava Kant. Adattiamo questa sorta di imperativo morale dicendo: se ne hai la libertà, guarda che poi ne hai anche la responsabilità. Allora, di fronte a questo discorso di responsabilità che porta con sé, nel caso in cui ci si sia comportati responsabilmente bene, porta con sé il premio, che è il paradiso, beh, è evidente che io non posso semplicemente dire: ma sì, in paradiso va chi decide Dio che ci debba andare, non posso bypassare la questione della libertà, ma devo dire soltanto una creatura libera va in paradiso perché è responsabile del proprio agire e l'animale così libero e responsabile non è. Io ripeto, non abbiamo mai visto né un cane né una scimmia raccontare barzellette, fare scommesse, digiunare, ma neanche pregare. Allora, di fronte a questa assenza di comportamenti che rivelano una capacità profonda di andare al di là e al di fuori degli schemi, devo concludere: l'animale non è libero, quindi l'animale non ha la funzione razionale nella propria anima. E cosa capita allora quando l'animale muore? Si decompone e la materia perde la forma come principio di unità, mentre quando l'uomo muore, l'anima si separa dal corpo, ma essendo sostanza spirituale sussistente, vive. Oh, certo, è un trauma, l'abbiamo già detto presentando la realtà della morte. Un'anima che si separa dal corpo vive come un trauma, perché si separa da ciò che le è connaturale tenere insieme e compaginare bene secondo un certo ordine. Allora, di fronte alle domande sugli animali che vanno o non vanno in paradiso, uno dovrebbe dire onestamente: non è un dogma di fede il paradiso e gli animali. A livello filosofico, antropologia filosofica, mettendo in rilievo la differenza specifica dell'uomo, che ha un'anima spirituale, verrebbe da dire: l'animale non ce l'ha perché non è libero, ma segue l'istinto, quindi non è responsabile. Non può essere incentivato con premi e castighi dal punto di vista morale, ma soltanto comportamentale, gli addestramenti con i riflessi condizionati, per intendersi, no? E allora, di fronte a questa situazione, è chiaro che l'uomo che desidera andare in paradiso deve far buon uso della sua libertà. E l'animale, che si trova ad agire secondo istinto, non ha evidentemente le carte in regola per dichiararsi moralmente responsabile delle sue azioni. E allora concludevamo: dobbiamo proprio considerare perse quindi tutte quelle piccole, grandi esistenze di animali domestici o meno che ci hanno magari regalato dei momenti anche di conforto, di compagnia, ci siamo anche affezionati magari a un animale. Dobbiamo pensare che nulla è esistito, non c'è più niente? No, bisogna invece andare a vedere la prospettiva di una scelta ultima che porti in paradiso e in paradiso dire: beh, nel cuore di Dio io recupererò anche l'esistenza dei miei animali domestici. Questa è l'ipotesi minima della quale possiamo essere, insomma, sicuri. Poi, se ha ragione San Paolo, come prima citavo, capitolo 8 della lettera ai Romani, è possibile che la creatura stessa venga rinnovata talmente in profondità che questi nuovi cieli e nuova terra portino anche con sé l'esistenza degli animali, ecco come potremmo immaginarceli, in una sorta di paradiso terrestre. La maggior parte delle opinioni teologiche più accreditate propende per la prima idea. L'animale, in quanto non dotato di anima razionale, non è responsabile, non merita un castigo ma neanche una punizione e quindi sopravviverà nella mente di Dio. E quando saremo in paradiso, proprio nella mente di Dio, nel cuore di Dio, potremo ritrovare il ricordo e una presenza più presente ancora che non quando eravamo sulla terra dei nostri piccoli animali preferiti. Ecco, io mi fermerei qui con questo tema di questa conversazione, di questa puntata, e lascio una piccola pausa musicale con l'aiuto della regia e aspetto poi successivamente le vostre domande che, come sempre, vi chiedo brevi e in tema con quanto trattato. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Rita e chiamo da Roma. Benvenuta. Volevo dire questo, grazie, che secondo me, ecco, l'uomo In qualche modo deve guadagnarselo il paradiso, mentre invece i nostri animali domestici e comunque in generale tutti, no. Per cui non, secondo me ci vanno, cioè sono salvi a prescindere. Grazie Rita per questo intervento. È molto interessante la distinzione che viene posta. L'uomo è chiamato a guadagnarsi il paradiso e l'animale no. E questa è una distinzione che si potrebbe utilizzare per far pendere così la bilancia in favore della tesi e quindi gli animali vanno in paradiso perché non dovendo far nulla per meritarselo ci vanno, diremmo, di default. Ma non è così semplice. Non è così semplice la situazione perché pensate quando ci poniamo la questione dei bambini che muoiono senza battesimo e diciamo che in fondo queste creature non hanno apparentemente, non essendo ancora in età di ragione, parliamo anche di bambini che ad esempio subiscono l'aborto spontaneo o procurato, sono embrioni. E ci siamo posti il problema in puntate passate del loro destino eterno. Potremmo dire, in fondo, anche loro non possono meritare il paradiso perché come fanno a compiere azioni buone per meritarselo? Ma sapete tutta la complessa questione teologica del peccato originale, per cui in realtà sarebbero esclusi. Ma allora la commissione teologica è intervenuta dicendo: in realtà dobbiamo credere che la divina misericordia anche in questo caso confermi una tesi che ben conosciamo, quella che ci porta a dire che l'amore di Dio conosce vie a lui solo note per rendere partecipi del mistero pasquale tutti gli uomini. E questo troviamo in Gaudium et Spes al numero 22. E questo vuol dire che a tutti è offerta la salvezza, anche a chi non potesse essere insomma, in grado di ricevere il battesimo, e poi ovviamente va accolta. E uno potrebbe dire, ma vediamo che bisogna far qualcosa per andare in paradiso. Non è scontato che chi non è in grado apparentemente di far qualcosa, per ciò stesso ci va di default. Ma forse la questione si risolve ricordando quello che abbiamo detto in passato. Che cos'è il paradiso? È la vita beata. È la partecipazione all'intima comunione d'amore con Dio. E questa intima comunione d'amore con Dio richiede la possibilità di amare. Ma l'amore non è una prerogativa che attiene al mondo dell'animale, laddove l'amore si intende, come insegna l'antropologia teologica cattolica, come la capacità di donarsi interamente ad un altro. Fare della propria vita un atto d'amore richiede però la libertà di volerlo fare. E tutto questo discorso esula completamente dal mondo animale. Come potrebbe un animale rispondere all'amore di Dio? Non può. Mentre è vero il contrario, e questo lo dico come rassicurazione a beneficio di quanti hanno piccoli animali domestici a cui sono affezionati, Dio ama immensamente tutte le sue creature, ma agli uomini offre una possibilità sostanzialmente diversa. Mentre gli animali sono semplicemente passivi di fronte all'amore di Dio, non vi corrispondono, e così pure i vegetali e i corpi celesti, gli universi, le galassie, tutto è amato da Dio, e che ovviamente ama ciò che è buono e positivo, cioè l'essere in quanto tale. Ma soltanto l'uomo può corrispondere a questo amore. E poiché il paradiso come vita beata è lo stato in cui si trova chi è in grado di corrispondere liberamente all'amore di Dio, va da sé che, secondo l'argomento teologico, l'animale non ha una carta in più per potersi trovare naturalmente in paradiso in quanto non libero, ma piuttosto un motivo in più per non partecipare al paradiso, così come invece vi partecipa l'uomo. Pronto? Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Come si Buonasera, chiama? niente. Sono Marco, siamo Marco e Federico, mio figlio, siamo in macchina e stiamo seguendo la trasmissione. Bene, prudenza alla guida. Siamo fermati, infatti, perché, per riuscire a rispondere senza problemi. Niente, noi siamo amanti di animali, abbiamo la casa piena di animali, abbiamo gatti, cani, tartarughe, addirittura abbiamo anche una gallina. E ci affezioniamo a queste bestie, tutte, poi tanto muoiono, qualcuna muore, Però abbiamo il ricordo dei bei ricordi. Però nel momento in cui muoiono, noi li seppelliamo, non è che, cioè, abbiamo anche quasi una tristezza nel cuore quando ci mancano. E il Certo. fatto di non vederli più ci dà, cioè abbiamo il bel ricordo dei momenti che abbiamo avuto con loro, come i nostri cari, quando muoiono abbiamo poi il nostro ricordo che ce lo portiamo per sempre. E per quanto riguarda la Bibbia, ne parla la Bibbia degli animali, perché io non sono, conosco il Vangelo perché lo leggo spesso, però per quanto riguarda la Bibbia non so se ne parla l'Antico Testamento della questione degli animali. E poi soprattutto noi parliamo dei nostri animali cari, ma gli animali sono miliardi nel mondo, no? Li macelliamo per mangiare, li uccidiamo per divertimento, chi lo fa? Io non sono contrario alla caccia, però diciamo, Dio penso nella sua bontà non accetta l'uccisione degli animali, almeno per divertimento come fanno i cacciatori nel mondo. E io sto ampliando un po' il discorso, però in breve, volevo chiedere, nell'Antico Testamento se si parla della questione degli animali o non se ne parla, o venivano solo uccisi per dedicare l'offerta a Dio come si faceva in passato? Bene, allora grazie per questa domanda, per questa serie di domande che conferma un po' la bontà della scelta del tema. Immagino che si potrebbe fare una seconda puntata anche solo di domande senza il dubbio di non ricevere una sufficienza. Rispondo, poi dopo faccio un'osservazione a margine. Allora, intanto è vero che uno potrebbe dire io mi affeziono all'animale, ma ne conservo il ricordo e tanto dovrebbe bastare. In fondo, anche per i nostri cari si tende spesso fa la stessa cosa. E qui metto in rilievo la differenza rispetto ai propri cari, rispetto alle persone. È vero, a volte si sente dire in fondo sopravvivono nel ricordo che rimane in noi, ma se andiamo a vedere il nostro vero desiderio è che non sopravviva soltanto il ricordo che noi ne abbiamo, ma che sopravviva la persona, che ci sia una vita eterna. Perché il ricordo che io ho delle persone che ho amato morirà con me se c'è soltanto il ricordo. Il ricordo è un voltarsi indietro verso l'inconsistenza. Memorie anche belle, fotografie, oggetti appartenuti a questa, a quella persona, ma la domanda vera è dov'è quella persona? Mentre con l'animale c'è una proporzione di affetto ben diversa. Noi possiamo dire anche amo il mio cane, ma sappiamo che non possiamo dirlo come amo mia moglie, perché ovviamente si usano in maniera metaforica, con differenze non di grado, ma proprio di sostanza, le stesse parole. L'amore che porto all'uomo non è lo stesso amore che porto all'animale. E invece per quanto riguarda la scrittura è molto interessante la domanda, e non si può esaurire in poco tempo, ma posso dare un accenno, ma intanto si parla tantissimo degli animali, a volte in maniera un po' particolare, no? Uno pensa all'asina di Balaam, che a un certo punto diventa quasi uno strumento con cui Dio interviene nelle vicende di questo personaggio della Bibbia, si può pensare all'insieme di tutti gli animali che vengono offerti in sacrificio, sicuramente possiamo pensare ai leoni della fossa in cui viene precipitato Daniele, che per volontà di Dio non lo mangiano e poi invece mangiano quelli che volevano sbarazzarsi del profeta. Ma se andiamo al di là delle immagini, mi viene ancora in mente nel libro di Giona, quando Ninive riceve la predicazione, si convertono perché bandiscono un digiuno, anche gli animali digiunano, ma ovviamente non sono gli animali che scelgono di digiunare, ma gli uomini che dicono qui dobbiamo metterci tutti a fare una penitenza, così Dio non ci punirà. Gli animali compaiono sovente nella scrittura. In fondo, se abbiamo così l'immagine anche un po' tradizionale del presepio con il bue e l'asinello, perché capiamo che nella storia della salvezza la vicenda umana si lega a questo grande aiuto che è l'animale, che tuttavia è di un ordine inferiore. Quando vado a leggere nei primi capitoli della Genesi la creazione, vedo che ci sono due racconti nella Genesi, no? Capitolo 1, capitolo 2. In un caso abbiamo prima gli animali e poi per ultimo viene creato l'uomo. Nel secondo racconto, sono due tradizioni diverse, per Prima si crea l'uomo e poi si creano gli animali. E sono due racconti veri entrambi, perché che l'uomo venga creato per primo, per dire che l'essere più importante, il primo voluto direttamente da Dio, o che l'uomo venga creato dopo, per dire che al vertice della piramide gli esseri viventi, la creatura più complessa, meglio organizzata e spirituale, è uguale. Ma è comune un'idea in queste due tradizioni della creazione, cioè che l'uomo è un essere dotato di libertà in cui Dio infonde non soltanto, come si può dire, la vita, ma il suo alito di vita. Soffia il suo pneuma, la ruah, lo spirito, per cui l'uomo è chiamato ad una vita, divina, c'è cioè quell'anima immortale che lo rende poi capace di salvezza o dannazione. Invece l'animale è un vivente inserito nell'ordine terreno della creazione, ma che è sottoposto all'uomo. In origine la volontà di Dio era che si mangiassero le erbe verdi e i frutti, sembra quasi che l'uomo fosse chiamato una scelta vegetariana, ma dopo il peccato originale, quando Dio stesso provvede delle pelli di animali perché i nostri progenitori si vestano, si comprende come Dio stesso permette all'uomo un'altra fonte di sostentamento, il mangiare la carne animale. Ovviamente rientra nella volontà di Dio, che si rispetti e si custodisca il creato. L'uomo è custode del giardino e quindi bisogna anche trattare con rispetto gli animali, e per cui si può, cacciare l'animale per quello che serve per l'alimentazione umana, non certo per divertimento, né maltrattando gli animali domestici o meno, e neanche procurando inutili sofferenze. Io credo che è sempre possibile, andando a leggere la scrittura, recuperare la giusta distinzione tra l'uomo e l'animale, ma trovando anche tanti spunti per accorgersi che proprio la Bibbia raccomanda grande attenzione e grande tenerezza, amorevolezza, cura nei rapporti con questi animali che servono l'uomo e devono anzitutto essere capaci di servirlo in posizione subordinata. La giusta gerarchia dei viventi ci permette di non, come si può dire, trasgredire l'ordine naturale pensato da Dio. Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Sono Lucia. Buonasera, sono un'insegnante, quindi ho a che fare con piccoli bimbi e anche con giovani, con i quali faccio lezione e anche piccoli progetti educativi. E, insomma, sono rimasta molto edificata da questa sua novità di proporre in modo così simpatico e anche molto competente, ecco, questo nuovo argomento. Io non. Sì, ovviamente anch'io ho avuto animali, bambini, nipotini hanno cani che veramente hanno atteggiamenti e sguardi che toccano il cuore, perché direbbe che a volte sono più sensibili di noi, ecco, più accorti, più addirittura avvertono il nostro umore, perché poi io avevo avuto anche i cavalli da giovane, avvertono proprio l'umore, hanno della sensibilità che talvolta ci supera. E sono rimasta proprio contenta di come lei ha esposto questa trasmissione, davvero mi ha meravigliato, perché sono un'appassionata, quindi frequento atenei di spiritualità, di formazione anche a Roma, eccetera. Però complimenti, davvero, si è espresso bene. E io concludo anche perché giustamente sto guidando, ho fermato la macchina, ma sono. Per dire che ho un grande cruccio nel cuore per quel che riguarda invece la vita morale, spirituale, la sofferenza dei nostri bambini che hanno addirittura ferite emozionali irrecuperabili perché vengono abbandonati dai genitori, ecco. Mentre c'è tanta sensibilità verso un cagnolino, che comunque se lo abitui bene, è sempre buono, più o meno buono, il bambino che a volte è vivace, ma perché soffre. Vedo che la società se ne occupa ben poco, perché spesso le maestre dell'asilo o le maestre dei bambini dell'età scolare, oppure noi insegnanti, per problemi nostri, per poca passione, li trascuriamo. E facevo il paragone, c'è tanta sensibilità verso il cagnolino, la bestia, eccetera, che può essere un cavallo, eccetera. Io ero affezionatissima ai miei cavalli. Quanto poco per questo genere umano, cioè, pensa agli anziani, soli, abbandonati, disperati, molto malandati, con pensioni irrisorie. Proviamo a pensare anche alla sofferenza dell'umano, perché dove andrà una persona disperata? Dove andrà una persona che spesso si suicida perché è abbandonata da tutti? Io non credo che andrà in paradiso. Noi che sicuramente abbiamo l'anima, poniamoci queste domande. Poniamocele, Certo, perché io certo. ne sono molto addolorata e ferita, perché riporto la sofferenza dei miei giovani che non hanno famiglia. Questo è un intervento che mi permette nel chiudere, che non significa esaurire l'argomento, ma si sta esaurendo il tempo a nostra disposizione, mi permette di dare un giudizio, ecco, anche di valore su tante posizioni che emergono oggigiorno. Anzitutto è vero, gli animali chiaramente non hanno la libertà e la spiritualità che caratterizza la sostanza della persona umana, come radicalmente diversa, ma non è che non abbiano la memoria, una certa forma di intelligenza, la sensibilità. A me è capitato di accompagnare in corsi di ippoterapia bambini disabili con cavalli che manifestavano una intelligenza nell'attenta interazione col soggetto, e davvero stupefacente. Ma questo vuol dire semplicemente un motivo in più per rendere lode a Dio, che è veramente un creatore prodigioso. E invece poi mi stupisce come, quando si parla di persone, spesso si ha molta meno sensibilità che non rispetto agli animali. L'esempio lo faccio anche nei nostri temi. Se io dico, così in maniera un po' tranchant, ma gli animali non vanno in paradiso, mi telefonano, protestano tutti gli animalisti. Ma quando io chiedo, ma scusate, ma i vostri cari dove sono? Li ricordiamo. E uno è più disposto quasi a perdere la vita vera dei propri cari che non degli animali. Ma questo è frutto di una mentalità, ovviamente estremista, no? Io dico proprio animalista nel senso estremo, perché amo molto gli animali, ma non sono un animalista, che cerca di eliminare le differenze. Ma chi vuole eliminare le differenze? Il nemico delle differenze è chi vuole eliminare il destino di beatitudine eterna per cui l'uomo è stato pensato, cioè il demonio. E allora attenzione, perché dietro a un bene apparente c'è poi un male. Dietro quella cura eccessiva dell'animale, pensate soltanto alle scelte che si fanno a volte per l'alimentazione dei propri animali, investendo capitali quando abbiamo negli occhi l'immagine dei bambini che muoiono per la malnutrizione. Ci sono degli estremi per cui forse dovremmo ritrovare un pochino un ordine, ma come dicevo in precedenza, è la stessa scrittura di Dio che ci rivela quest'ordine. L'animale è una parte di quel grande dono che è il creato, che Dio ha posto nelle mani dell'uomo perché sia ben curato e custodito, ma come mezzo affinché l'uomo realizzi il proprio fine ultimo, che è la gloria di Dio e la salvezza dell'anima. Ecco, cari amici, mi fermerei qui perché davvero il tempo va a esaurirsi. Vi ringrazio per gli interventi, sempre molto ricchi, molto stimolanti. Non escludo di riprendere in futuro l'argomento perché vedo che desta un certo interesse. Nel concludere, voglio ancora ricordarvi quella piccola citazione cinematografica con cui ho aperto la puntata, in fondo alla salita, questo film dedicato alle apparizioni di Medjugorje attraverso una storia di conversione di un giovane che si libera da quelle ferite che lo portavano a cercare nelle dipendenze una sicurezza e un bene che soltanto Dio può dare. L'anteprima nazionale è a Rivalta di Reggio Emilia, sabato e domenica 18 e 19 dicembre. Sul sito in fondo alla salita.com trovate anche tutte le informazioni. E appunto dicevo, visto che da un po' di tempo che non si può andare a Medjugorje, è l'occasione per riportare negli occhi e anche nel cuore questo luogo benedetto da Dio. Concludo salutando tutti voi, assicurando la preghiera, ringraziando Marco in regia, chiedendovi come sempre di pregare tanto per il Santo Padre, per tutti i nostri pastori e per la Chiesa intera. Un ricordo speciale alle persone sofferenti nel corpo e nello spirito, e un cordiale saluto a tutti da parte di Diego Vanetti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.